In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Oggi, quando ho letto questo brano del Vangelo, mi è venuto in mente un episodio che ho vissuto, che mi è capitato negli Stati Uniti. E perché mi è venuto in mente? Perché Erode aveva sentito parlare di Gesù. Aveva sentito parlare della sua predicazione, dei prodigi che lui compiva, dei miracoli, di tutto quello che faceva, predicava, diceva. E era molto curioso e voleva vederlo, voleva vedere anche qualcosa, se vogliamo, di prodigioso. Erode voleva studiare Gesù, voleva conoscere Gesù, ma non intimamente. Per conoscere Gesù intimamente bisogna essere disposti a cambiare. E non so quanto Erode fosse disposto a cambiare. E allora mi è venuto in mente un episodio, vi dicevo, che mi è capitato negli Stati Uniti. Quando ero a Champaign-Illinois, ho fatto un incontro. Ero nella chiesa e ho fermato una ragazza. E uno pensa, se sto nella chiesa cattolica, questa ragazza sicuramente è cattolica, invece questa ragazza era non credente, atea, di Singapore e si chiamava Lichen. E questa ragazza, appena io mi sono presentata, io ho detto: Ciao, io sono Tiziana, sono una consacrata come una suora, vengo da Roma. E lei si è messa subito a piangere. Io ho detto: Vuoi parlare? E lei mi ha detto di sì. Ci siamo messe a parlare e lei mi dice che è di Singapore, che non è credente e che il giorno precedente era in quella chiesa portata da una sua amica cattolica e che tra l'altro oggi è nella nostra comunità perché attraverso questa Alice ho conosciuto Debbie, che appunto è la nostra consorella oggi, che all'epoca era fidanzata, anzi in procinto di sposarsi. E quindi lei mi dice che era andata nella chiesa portata da Debbie perché era molto depressa in quanto le era morta la mamma e Debbie voleva farle conoscere la fede, voleva farle conoscere Dio per farle capire che la mamma non era morta per sempre, ma è vivente in Dio, è in un altro tipo di vita, ma è ancora viva. E questa ragazza, quando era in chiesa il giorno prima, durante la messa ha visto tutti questi giovani lodare Dio, ha detto sono tutti un po' fuori di testa, ha pensato, però ha fatto per la prima volta una preghiera. Signore, io non credo in te, ma se tu esisti mi devi mandare qualcuno che mi parli di te. Il giorno dopo è voluto rientrare nella medesima chiesa, io l'ho fermata, siamo diventate amiche, le ho parlato di Gesù e dopo mesi che parlavamo di Gesù, lei mi dice: Tiziana, la tua religione è troppo bella per essere vera. Io non ci credo. Allora ho detto: Lice, Gesù è una persona, non è un libro. Non basta che noi parliamo di lui. Bisogna parlare con lui, bisogna incontrarlo. E le ho consigliato di fare un ritiro, di avere modo quindi di parlare veramente col Signore, di incontrare il Signore. E lei è tornata da questo ritiro trasformata e mi ha detto: Tiziana, il giorno in cui tu mi hai fermato, io avevo deciso di suicidarmi. Quindi sono veramente grata al Signore perché adesso lo conosco non più per sentito dire, non più come un libro, ma veramente come una persona. Allora oggi facciamo questo proposito di conoscere Gesù non solo da un punto di vista di approfondimento della fede, di un punto di vista dottrinale, teologico, ma di avere un approfondimento della conoscenza di Gesù per contatto diretto, per un incontro personale. Vogliamo incontrare Gesù, non vogliamo essere solo curiosi, una curiosità così magari razionale, e va bene, ci sta anche quella, ma soprattutto dobbiamo incontrare Gesù come persona, a tu per tu, cuore a cuore, nella preghiera. Buona giornata.